approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. È un capolavoro dell'ingegneria e una volta che verrà aperto al traffico regolare accorcerà le distanze tra l'Italia e il centro dell'Europa. È il tunnel ferroviario del Gottardo che con i suoi 57 chilometri di lunghezza, tutti in territorio svizzero, diventa la galleria più lunga mai costruita al mondo. Per intenderci, supera di poco più di 3 chilometri il tunnel della Manica. Un'opera all'avanguardia per tecnologia e sicurezza che a sua volta giunge a realizzazione dopo un lungo viaggio nel tempo. Addirittura la prima galleria del Gottardo risale al 1882, per quel tempo un altro miracolo dell'ingegno. Già alla fine degli anni 40 si iniziò a parlare di un nuovo tunnel con pendenze ridotte. Progetti, sondaggi, studi. Poi nel 1992, con un referendum, gli svizzeri approvarono il piano della nuova trasversale alpina. I lavori di scavo iniziarono nel 1999. A regime, nella galleria più lunga del mondo, costata 12,2 miliardi di franchi svizzeri, potranno circolare fino a 340 treni al giorno. Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla scheda iniziale, oggi ci occuperemo del tunnel ferroviario del San Gottardo. La galleria di base permetterà il transito di treni più lunghi e più pesanti, impiegando meno locomotive, garantendo così tempi di percorrenza ridotti, oltre a ridurre l'impatto della circolazione sull'ambiente. I treni merci viaggeranno a un massimo di 160 km orari, una velocità impensabile ad oggi. Per quel che riguarda il trasporto viaggiatori, si calcola che solo nel bacino tra la Germania meridionale e l'Italia settentrionale più di 20 milioni di persone beneficeranno di quest'opera. Ma quali saranno i risvolti per il mondo produttivo e dei servizi italiano? Lo chiediamo ai nostri ospiti e vi presento subito il primo, Giancarlo Laguzzi, presidente di Fercargo, che è l'associazione degli operatori ferroviari privati italiana. Lei, con un parallelismo molto efficace qualche tempo fa, ha paragonato quest'opera, il nuovo tunnel del Gottardo, all'introduzione dell'alta velocità fra Roma e Milano e all'impatto che ha avuto sul trasporto passeggeri. Ecco, è stata una vera e propria rivoluzione sulla linea Roma-Milano per i passeggeri. Sarà una rivoluzione anche per le merci questa nuova linea del Gottardo? Assolutamente sì, perché questa linea, così come l'alta velocità, ha collegato le due aree più maggiore densità abitative, Milano e Roma, così la nuova galleria del Gottardo collega le due aree a maggiore densità, certo, industriale, che sono la Ruhr e la Padania. Avrà assolutamente degli effetti importanti sul traffico merci, o meglio sul traffico intermodale, perché i costi si abbatteranno per unità di merce trasportata in relazione alla maggiore lunghezza dei treni e al fatto che quando si arriva al Gottardo oggi si fa una tripla trazione, cioè che in termini concreti vuol dire aggiungere due locomotive per spingere il treno. Con questa nuova galleria la sola locomotiva, certo, titolare può proseguire. Ecco, questo abbattimento dei costi che ripercussioni avrà sulle imprese in Italia, sugli operatori italiani, ma anche sui porti? Lo chiediamo ad Enrico Musso, direttore del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata dell'Università di Genova. Dunque, la questione è molto interessante perché, come ha ricordato il dottor Laguzzi, qui stiamo collegando attraverso questa nuova galleria, stiamo collegando le aree produttive manifatturiere più importanti d'Europa, diciamo lungo l'asse Germania, Svizzera, Pianura Padana, in particolare Lombardia. Ora, questo grande corridoio industriale ha alle due estremità dei sistemi portuali molto importanti, e quello del nord Europa è, come è noto, più efficiente di quello mediterraneo, sia nella sua articolazione dei porti liguri, sia dei porti adriatici, eccetera. Vedo un dato rispetto al traffico del porto di Genova, per fare un esempio, diciamo, importante, comunque il porto principale d'Italia, escludendo il porto di Gioia Tauro che fa quasi solo trasbordo. In realtà quasi la metà del traffico da per Genova fa capo alla Lombardia e si può stimare che un buon 40% faccia capo all'area milanese o comunque a un'area contendibile dai porti del nord, certo, attraverso il Gottardo, molto più di quanto non sia adesso. Ecco, quindi c'è un problema di competitività con questi porti del nord. Sì, come dire, questa è un'opera molto ben fatta, molto positiva, in cui gli svizzeri tra l'altro hanno dato prova di una grande puntualità svizzera, appunto, rispetto al programma e così via. Il fatto però che in questo modo si completino tutti gli anelli di questo corridoio, meno uno purtroppo, Volga, è quello che collega la pianura padana al suo sbocco portuale naturale dal punto di vista geografico, che è proprio l'arco Ligure, il famoso terzo valico dei Giovi, e quindi il prolungamento ferroviario di questo corridoio qui, farà un po' un effetto K del Camino, cioè una percentuale in questo momento non stimato, probabilmente a due cifre del certo. traffico di cui parliamo. Quindi risucchierà il traffico verso le imprese del nord Europa praticamente. Verso i porti del nord Europa certo. in particolare. Il traffico in esportazione dalla pianura padana, dalla Lombardia in particolare, che però è la gran parte del bacino dei porti liguri e parte significativa anche del bacino dei porti adriatici, andrà più di quanto già non faccia adesso, perché in parte già lo fa, verso certo. il nord Europa. Laguzzi, ecco, questo pericolo del resto era stato denunciato dagli stessi operatori ferroviari, che però quali opportunità hanno da questa innovazione? Faremo qualche treno in più che va verso il nord, che va verso il nord Europa, e faremo qualche treno in meno che va e viene dai porti italiani. Per noi è semplice. Il tema però che solleva il professore è reale. Semplificando brutalmente, cosa che un professore non può fare, oggi a trasportare un container via nave dal Far East a Shanghai, per capirci, a Genova, si spende più o meno 800 euro. Per trasportare lo stesso container da Genova a Padova si ne spendono altrettanti. Sì. Quindi chi trasporta un container spende metà per il terrestre in Italia e metà per tutta la tratta marittima. È chiaro che in questo contesto, venendo da nord, la tratta terrestre da nord, che costa di più oggi della tratta terrestre italiana perché è più lunga, certo. riducendo il suo costo di una percentuale da un 15, forse anche 20%, ma sicuramente 15, è chiaro che il punto di convenienza si sposta ancora una volta certo. a favore del porto nord. Se lo meritano, perché gli investimenti l'hanno fatto loro, quindi chapeau. Questa capacità di attrarre gli investimenti, professor Musso, perché non esiste invece nei porti italiani? Questa è un po' la meritocrazia applicata al trasporto di merci, nel senso chi è più bravo adesso ottiene giustamente maggiori risultati, che come ha evidenziato Laguzzi non pongono tanto problemi agli operatori, che anzi sono ben contenti di avere da qualche parte un sistema più efficiente, ma pongono i problemi proprio al sistema che dei due è stato il meno efficiente. Noi, tanto per dire, non siamo tanto in grado di attrarre investimenti, di attrarre anche capitali internazionali su grandi investimenti infrastrutturali, per il fatto che come paese siamo su questi investimenti particolarmente inaffidabili, nel senso che i nostri programmi, quando si fanno e non sempre si fanno, hanno poi delle tempistiche assolutamente imprevedibili, perché legate ai cicli della politica, agli umori della piazza, alle proteste certo. di questo o quel comune, certo. di questo o quel comitato. Ma cosa succede, cosa succederà per il mondo dell'intermodalità e dell'autotrasporto? Lo abbiamo chiesto a Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Certamente ci sono tante imprese italiane che già oggi sono impegnate nel trasporto intermodale, ferrovia e strada. Ci sarà un altro vantaggio per queste imprese, le imprese di autotrasporto stradale che non si adegueranno ad offrire anche servizi intermodali magari saranno esclusi da certe relazioni di traffico, come appunto tutta l'Italia nord-ovest con tutta la parte a nord della Svizzera, che senz'altro già adesso è una trasversale, un'offerta molto battuta dal trasporto intermodale. Domani penso che il trasporto stradale non avrà più chance per questa direttrice. Importante comunque sarebbe che anche i porti italiani si adeguino a questa attività snella, facile, veloce dei porti nordici, per contrastare la supremazia dei porti del nord. I porti italiani dovrebbero cambiare la loro governance, come oggi per esempio il porto di Barcellona della Catalogna, dove lo Stato si limita ad interventi infrastrutturali al di sotto del livello del mare, drenaggi, banchine e così via, mentre tutto quanto riguarda l'investimento di infrastrutture come gru, come deposito, come magazzini, come aree di parcheggio, uffici e così via, dovrebbero venire fatte dai privati. Bene, termina qui anche questa seconda puntata di Container, approfondimento settimanale dedicato al mondo dei trasporti e della logistica di Radio 24. Vi ricordo che la trasmissione è stata realizzata in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il prossimo appuntamento con Container è sabato prossimo, dopo il GR dell'Una. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.